GR24, il sole 24 ore. Svolta nelle indagini sull'omicidio di Sara Scazzi, portata in procura la cugina Sabrina. Berlusconi e il figlio indagati anche a Roma nell'inchiesta Media Trade. Studenti e professori in piazza contro i tagli, un insegnante si appende per protesta fuori da una finestra di una scuola a Torino. Dopo Pirelli, anche Lavazza fa il suo calendario con un ragazzo mezzo nudo. Ancora un buongiorno dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. In apertura, i fatti di Avetrana sulla morte di Sara Scazzi, le ultime da Cristina Carpinelli. Sì, buongiorno. Sabrina Misseri, la cugina 25enne di Sara Scazzi, è stata condotta in procura. In questo momento viene interrogata in presenza del suo avvocato. La ragazza viene sentita dal magistrato Buccolieri e per la prima volta è assistita da un avvocato difensore. Questo perché la ragazza da questo momento potrebbe essere formalmente indagata per concorso in omicidio e occultamento di cadavere. Infatti tutti gli interrogatori fatti fino adesso erano sempre avvenuti come persona informata sui fatti e mai alla presenza di un difensore di fiducia. La giovane è stata portata via incappucciata dalla casa di Via Deledda da Vetrana questa mattina alle 11.30. Poco prima i carabinieri avevano effettuato un sopralluogo nella cantina garage. Era presente anche Michele Misseri. È la prima volta che i carabinieri scendono nel garage. Sembra che l'uomo abbia dovuto mimare la modalità dell'omicidio. Ci sono ancora parecchie incongruenze da verificare. I sopralluoghi erano iniziati questa mattina alle 7, si sono conclusi alle 11. Alle 11.30, come vi dicevo, Sabrina è stata portata in procura. Nel frattempo si sono conclusi anche i rilievi dei RIS svolti sempre con Misseri nei pressi del pozzo dove l'uomo ha fatto ritrovare il cadavere della nipote lo scorso 7 ottobre. Per ora è tutto. Grazie a Cristina Carpinelli. Queste invece le vicende giudiziarie del Premier, in diretta Raffaella Calandra. Dopo Milano anche Roma, uguali le accuse, diversi gli anni di riferimento. Anche Piazzale Clodio ha iscritto Silvio Berlusconi e Pier Silvio nel registro degli indagati per evasione fiscale. La stessa contestata sempre al Premier, al figlio e altri 10 tra manager e funzionari nell'inchiesta milanese Media Trade RT del PM Fabio De Pasquale. L'indagine romana nasce infatti dagli atti trasmessi da Milano la scorsa estate per competenza territoriale, dal momento che la società Reti Televisive Italiane, controllata da Mediaset al 100%, ha sede legale nella capitale. Sotto la lente degli investigatori ci sono le imposte per gli anni 2003-2004 e la compravendita dei diritti televisivi. Piazzale Clodio ha fatto partire anche alcuni inviti a comparire, non per il Premier, come ci è stato confermato da uno dei suoi difensori, ma di sicuro invece per il produttore Frank Agrama, tra gli altri. A Milano l'inchiesta Media Trade è stata chiusa, ma poi fermata, come gli altri procedimenti a carico del Premier, per l'invio degli atti alla Consulta, che il 14 dicembre si pronuncerà sul legittimo impedimento. Sono contestazioni identiche a quelle milanesi, ribadisce l'avvocato di Berlusconi Nicolò Ghedini, certo della possibilità di dimostrare come i prezzi dei diritti fossero congrui e quindi Berlusconi e figlio, ha detto, estranei alle accuse. Nell'indagine milanese originaria la frode fiscale sarebbe di circa 8 milioni, ma contestata fino al 30 settembre 2009. Ed è tutto. Grazie a Raffaella Calandra. Il ministro dell'Interno Maroni ha incontrato questa mattina il leader della CGIL Epifani e ieri sera i dirigenti della FIOM. Al centro degli incontri il corteo di domani a Roma, sul quale il Viminale ha lanciato l'allarme. Per Maroni ci sarebbe il rischio di infiltrazioni di anarchici, centri sociali e gruppi violenti, mentre il segretario della FIOM Maurizio Landini ha rassicurato Maroni dicendo che sarà sicuramente una manifestazione pacifica e serena. Sentiamo Landini al microfono di Alessandra Schepisi. Ci siamo scambiate informazioni, noi non abbiamo alcun segnale di nessun genere e abbiamo ribadito che per quello che ci riguarda, se ci sono segnali di preoccupazione come lui ha indicato, deve essere il Ministero degli Interni che garantisce la sicurezza a tutti noi. Non avete segnali? Non c'è il rischio che qualcuno possa usare il corteo per altri scopi? No, noi non abbiamo segnali di questo genere, tutt'altro. Abbiamo cioè segnali di una grande manifestazione pacifica e democratica che sarà realizzata e abbiamo ribadito che se loro hanno segnali di questa natura debbono agire ed è loro responsabilità garantire anche a noi che ci sia la possibilità di manifestare democraticamente. Pare che questo sia il punto e abbiamo voluto ribadire questo elemento con la disponibilità assoluta di collaborare per quello che ci riguarda, fare la nostra parte, ma come abbiamo sempre fatto. Però voi dite al ministro, insomma, di non scaricare le responsabilità sul sindacato. Michele Santoro vince la gara degli ascolti battendo la Fiction di Rai 1 e Paolo Bonolis su Canale 5. La quarta puntata di Anno Zero attesa dal pubblico dopo le polemiche seguite alla sospensione decisa dal direttore generale Mauro Masi ha fatto segnare il record stagionale con quasi 6.300.000 spettatori, il 23,47% di share. Intanto parla Klaus Condicio, il consigliere di minoranza Rai Nino Rizzo Nervo. Masi sta tornando alla carica, dice, per la cancellazione di Serena Dandini in primavera. Mario Boselli, presidente di Centrobanca e l'ex direttore generale dell'Istituto Vitaliano d'Urbano, che si è dimesso il 6 ottobre scorso, sono stati iscritti nel registro degli indagati della Procura di Milano nell'ambito dell'inchiesta sul fallimento del gruppo Burani. Per loro l'accusa è di concorso in bancarotta. Enel Green Power è pronto allo sbarco in borsa. Gli Enel People sono di nuovo chiamati alla prova della borsa. Il gruppo elettrico, dopo la conquista della spagnola Endesa, sta per portare sul mercato la sua costola verde, Enel Green Power, la società dedicata all'energia da fonti rinnovabili. L'offerta pubblica di vendita delle azioni partirà lunedì prossimo. Poi il nuovo titolo debutterà in borsa a Milano e Madrid il 4 novembre. La società, nata poco più di 2 anni orsono, si occupa dello sviluppo e della produzione di energia elettrica attraverso fonti alternative rinnovabili, energia eolica, geotermica, solare, biomassa. È presente in Europa ed ha impianti anche nelle 2 Americhe con un fatturato di oltre 2 miliardi. Agli azionisti promette un dividendo generoso con la distribuzione del 30% degli utili. Enel conta di incassare almeno 3 miliardi portando in borsa il 33% di Green Power con l'obiettivo di ridurre il proprio indebitamento. Il prezzo del collocamento sarà individuato tra 1,80 euro e 2,10 euro per azione. Da un sondaggio dell'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radio Core emerge che gestori e trader scommettono su un prezzo di poco inferiore ai 2 euro. Alessandra Capozzi da Radio Corp per Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E questi sono i dati Istat di giornata. Deficit commerciale con l'estero raddoppiato e inflazione in calo. I nuovi dati sull'andamento dell'economia sono stati diffusi stamattina dall'Istat. I prezzi al consumo a settembre hanno registrato un calo dello 0,2% rispetto ad agosto. Il tasso di inflazione è all'1,6% rispetto a un anno fa e comunque resta molto basso nella media dell'anno. I rincari maggiori a settembre sono stati segnalati nei servizi per l'istruzione e nei generi alimentari. Rincari anche per il gasolio, mentre il costo di GPL benzina verde è diminuito. Passando alla bilancia commerciale, ad agosto si è registrato un deficit di oltre 3 miliardi, il doppio dell'anno prima. L'export però ha manifestato una significativa vivacità con un aumento del 31,5% rispetto al 2009. Si tratta del massimo dal 1995. In crescita anche le importazioni, salite del 38%, altro record da 10 anni a questa parte. Ancora in deficit gli scambi complessivi di automobili, ma agosto ha visto un salto delle esportazioni di oltre il 18%. Barbara Bonomi da Radio Corp e Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed ora il nostro appuntamento con l'Italia che riparte. 20 di ripresa. L'Italia che riparte. 2009 è stato un anno di crisi che però è stato anche un anno di opportunità. Massimo Pavin, ingegnere, è il titolare di Sirmax, azienda padovana che produce e commercializza materie plastiche. 160 persone che lavorano in 3 stabilimenti in Italia, 1 in Polonia e 4 uffici commerciali in Europa. Dai 135 milioni di fatturato 2008, Sirmax è scesa a 100 nel 2009 per poi risalire a 140 quest'anno. La crisi è stata, secondo Pavin, un volano di ripresa. Ci siamo trovati ad avere dei competitors che sono mancati, che hanno chiuso, altri hanno venduto. Ne abbiamo tratto anche dei vantaggi sul mercato prendendo delle quote che permanano altrui. Fra le opportunità della crisi anche la razionalizzazione, sempre secondo Pavin. Noi abbiamo visto che nel 2010 rispetto al 2009, con 30 persone in meno, 23 operai e 7 impiegati, stiamo producendo proprio chili 30% in più. Quindi ci siamo anche chiesti certe volte se servono proprio le crisi. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Candidati indegni alle elezioni, secondo voi a chi spetta il controllo? È quanto vi abbiamo chiesto oggi nel nostro sondaggio. Il 30% di voi ha risposto tocca alla magistratura, il 37% alla politica, il 33% agli elettori col voto. Un nuovo sciopero contro Italia alla scuola. Oggi in 13 città italiane protestano i COBAS. A Torino un insegnante dell'istituto Rosa Luxemburg si è arrampicato per protesta sulla facciata della scuola. scuola. Alice Cason ha raggiunto al telefono il professor Wolfgang Sbadia. Insegno diritto e economia, però insegno anche un po' scacchi. Non sono un precario, ho cominciato a insegnare nel 76, mi sono calato dal tetto della scuola, siccome io arrampico e faccio alpinismo, quindi avevo tutta l'attrezzatura, stamattina sono andato lì e sono disceso in corda doppia e mi sono sospeso, sono stato lì 4 ore, insomma. Non credo molto alle dimostrazioni individuali. Ho sempre creduto alle manifestazioni, alle migliaia di studenti, di insegnanti, e ho fatto questa azione individuale questa volta per una mia personale esasperazione nei confronti del disinteresse del governo nei confronti della scuola. La scuola non ha ministero, è un ministero ad interim tenuto da Tremonti, dal governo. È vero che c'è la crisi, che mancano i soldi, che eccetera. Noi siamo qua che spendiamo miliardi di euro per cacciabombardieri e non troviamo 4 soldi per le supplenze nelle scuole, per coprire le classi. La protesta contro la riforma delle pensioni ha avuto una conseguenza importante in Francia. È stato bloccato stamattina per mancanza di carburante dopo il blocco delle raffinerie l'oleodotto che rifornisce gli aeroporti parigini, che a questo punto sono a rischio. Anche il 19° calendario Lavazza, edizione 2011, così come il calendario Pirelli, ritrarrà, oltre alle solite splendide ragazze, anche modelli seminudi volte ad incarnare l'immagine di divinità pagane. Come si commenta questa tendenza? L'abbiamo chiesto a Barbara Alberti, conduttrice del nuovo programma di Radio 24, La Guardiana del Faro, in onda la domenica alle 9. Maschi e femmine siamo tutti nel ramo del mercato della carne, quindi così come noi, insomma, ci vendono a stock, e adesso non risparmia nessuno questa cosa, è trasversale questa cosa di essere. Io poi, la verità, io i calendari non ho mai capito che cosa, però c'è una cosa che mi piace, perché è una cosa molto arcaica, perché mi ricordo quando ero piccola c'erano questi libricini profumatissimi che non si poteva star vicino, che davano i barbieri allora. Erano dei piccoli panfrettini porno soft, insomma, maliziosi, molto belle poche in fin dei conti, no? E quindi in questo c'è qualcosa di arcaico, non so, un po' come in Sanremo, no? Ma quanto al fatto, dunque, intanto anche noi evidentemente siamo diventate consumatrici di carne pubblicitaria, e quindi secondo me il pubblico sono le donne, i gay, e mi sembra una buona cosa in questo senso, perché dato che si sta ricreando una persecuzione dei gay, non c'è niente da fare, e quindi l'idea comunque che ci sia un'affermazione, cioè voglio dire che si investa su questo, mi piace. Ma secondo me i consumatori sono anche i maschi, perché adesso che sono diventati così vanitosi, che si sfiniscono in palestra, che si curano come delle signorine, secondo me c'è uno specchio narcisistico che può piacere ai maschi. Nella prima parte di GR24 abbiamo parlato della svolta nelle indagini sull'omicidio di Sara Scazzi. È stata portata in procura la cugina Sabrina. In questi minuti anche il padre, il reo confesso del delitto. Forse gli inquirenti pensano a mettere i due a confronto. Berlusconi e figlio indagati anche a Roma nell'inchiesta Media Trade. Poi abbiamo sentito le parole dell'insegnante che per protesta si è appeso letteralmente fuori dalla finestra di una scuola a Torino. 8 anni fa Ingrid Betancourt, lo ricorderete sicuramente, veniva sequestrata dalle FARC, passò 6 anni nella giungla incatenata a un albero. Oggi racconta come è tornata a vivere dopo la prigionia. Lorsque je suis revenue, la seule chose que je ne voulais pas perdre, c'était... Da quando sono libera, la sola cosa che non voglio perdere è il mio diritto ad amare. Ho capito che tutto il resto potrei perderlo. Potrei perdere il mio denaro, la mia vita politica, potrei perdere anche molti miei amici, ma non potrei perdere i miei figli. Solo un carceriere mi ha chiesto scusa ed è stato un momento straordinario, perché fu grazie ad una guerrigliera. Sapeva che il compagno mi aveva trattato con crudeltà. Praticamente lo costrinse a venire dov'ero per obbligarlo a scusarsi. Ecco, è per questo che non posso dire se i miei carcerieri, uomini e donne della FARC fossero buoni o cattivi. Questa distinzione per me non esiste. Per quanto riguarda la politica, penso che ci sia l'oggi e ci sia il domani. È molto difficile per me fare progetti sul domani, perché sto ancora cercando di ritrovarmi nel presente. Quello che so è che oggi sono incapace di fare politica, perché sono ancora troppo fragile emotivamente. C'è una parola magica, che spesso risponde a tutte le domande essenziali che ci facciamo. Questa parola è amore. Quello che mi ha salvato è l'amore. L'amore dei miei figli, l'amore di mia madre, di mio padre. L'amore di un passato d'amore che ho vissuto e che mi ha obbligato a voler fuggire. Ma soprattutto l'amore dei miei compagni, degli altri ostaggi. Lettera aperta al governo di Pechino da parte di un gruppo di intellettuali dissidenti per chiedere la liberazione del premio Nobel per la pace Liu Xiaobo e l'instaurazione in Cina di un sistema democratico. A una settimana dall'assegnazione del premio Nobel per la pace al dissidente Liu Xiaobo, a Pechino continuano a diffondersi forme di protesta strisciante, proprio mentre comincia uno dei più importanti appuntamenti politici dell'agenda del Partito Comunista Cinese. Un gruppo di circa 200 persone, tra dissidenti e avvocati dei diritti umani, ha diffuso oggi una lettera nella quale si chiede il rilascio di Liu e della moglie Liu Xia, presa in custodia dalla polizia venerdì scorso, per consentire loro di ritirare il premio a Oslo, e si invoca l'aiuto della comunità internazionale per tutti i cinesi che lo hanno appoggiato. La petizione si aggiunge a un'altra lettera diffusa qualche giorno fa, nella quale centinaia di ex membri del partito chiedevano uno stop alla censura, ma nonostante i recenti discorsi nei quali il premier Wen Jiabao ha riconosciuto il desiderio di ampie riforme politiche, difficilmente queste petizioni avranno un effetto concreto nel breve periodo. Ieri il portavoce del Ministero degli Esteri cinese aveva definito l'assegnazione del premio a Liu Xiaobo una istigazione a delinquere. Antonio Talia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Pechino. It is a privilege for me to introduce Mr. Raoul Bova. Quella che sentite è la voce del direttore generale della FAO, Jacques Diouf, che nomina, avete sentito, Raoul Bova, ambasciatore di buona volontà dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione. Insieme a Bova sono stati investiti del compito di promuovere il sogno della FAO di un mondo senza fame anche l'attrice Susan Sarandon e le cantanti Céline Dion e Lea Salonga. Le nomine al termine delle celebrazioni a Roma della Giornata Mondiale dell'Alimentazione, che sarà festeggiata come ogni anno domani, il 16 ottobre, compleanno della FAO ormai 65enne, e domenica sempre a Roma la Run for Food Race, mini maratona contro la fame. Sarà in distribuzione a Roma dal 20 ottobre, a Milano dal 24, Melting, il mensile dei nuovi italiani. Ne abbiamo parlato con il direttore Franz Gustincic. Si tratta di un giornale che è praticamente unico in Europa, perché contrariamente alla maggior parte dei giornali che parlano di immigrazione, che sono normalmente rivolti agli italiani che si occupano di immigrazione, questo è rivolto agli immigrati e quindi scritto in italiano semplificato e vuole proporre l'Italia piegandola in qualche modo agli immigrati nell'ottica di offrire un servizio agli stranieri. Fra i vostri redattori ci sono persone straniere? Abbiamo un redattore che è fisso, che praticamente tutti i giorni si può trovare in redazione, che è anche il fotografo del giornale, che viene dal Bangladesh, si chiama Rachid Ahmed. Abbiamo poi collaboratori filippini, cinesi, giordano e un romeno. Stiamo lavorando per cercarne anche altri, perché vorremmo arrivare a coprire almeno una decina di lingue, perché alcune pagine sono nelle lingue native. Torniamo ai fatti di Genova di martedì. Il capo ultra serbo arrestato per gli incidenti è stato ascoltato questa mattina dal GIP nel carcere genovese di Marassi. Il GIP Maurizio De Matteis ha convalidato l'arresto dei primi quattro ultraserbi che stamane sono comparsi davanti a lui per l'udienza di convalida. Contemporaneamente, per tutti, il giudice ha disposto la detenzione in carcere. Tra loro c'è Ivan Bogdanov, il simbolo della guerriglia di martedì sera al Ferraris. Di fronte al giudice l'ultraserbo ha ribadito le sue scuse per quanto accaduto, ha detto di non aver nulla contro l'Italia e gli italiani e di aver inteso protestare contro la federazione serba che non convoca in nazionale alcuni giocatori della sua squadra, la Stella Rossa. Ha aggiunto di non far parte di alcun gruppo ultranazionalista serbo e ha raccontato di essere arrivato in Liguria lunedì sera e di aver pernottato in un albergo di Varazze. Domani davanti al GIP compariranno gli altri quattro ultraserbi. Lunedì il PM si pronuncerà sulla richiesta di patteggiamento presentata dai legali degli arrestati e il GIP deciderà se concederlo. Andrea Ferro, Radio 24, Sole 24 Ore, Genova. E dopo una settimana di polemiche extracalcistiche per gli incidenti appunto allo stadio di Genova, ci riavviciniamo al campionato guidato dalla Lazio, che domenica giocherà nel posticipo a Bari. Intanto domani negli anticipi il Milan affronta a San Siro il Chievo, mentre la Roma ospita all'Olimpico il Genoa. fresco ex di turno per i giallorossi Luca Toni. È chiaro che con un risultato positivo a Roma, ripeto, prendi entusiasmo, prendi forza, e a questo Genoa ha bisogno di fare un bel risultato fuori casa, sia come punti anche come gioco. Chiaro, questa per loro è una partita che devono vincere a tutti i costi, conoscendo la piazza, conoscendo le loro aspettative, e quindi non vincendo con noi sicuramente avrebbero più problemi. Altro evento del weekend che ci attende: il via del campionato di basket. Domani l'anticipo Banca Tercas Teramo Armani Jeans Milano. Sarà la stagione dell'attacco a Siena. Tra i pretendenti anche la Virtus Roma di Matteo Boniciolli. Sentiamo il coach romano. Questa squadra, quando prenderà ritmo e troverà un suo assetto, sarà una squadra interessante, divertente e pericolosa per gli altri. Pericolosa ovviamente in termini sportivi. Il ciclismo: domani si corre il 104° Giro di Lombardia, la classica delle foglie morte che tradizionalmente chiude la stagione ciclistica. Quest'anno, dopo 26 anni, la corsa parte da Milano per concludersi dopo 260 km a Como. Fra i favoriti Vincenzo Nibali, Cadel Evans, Frank Schleck e soprattutto il belga Philippe Gilbert, vincitore nel 2009 e ieri anche del Giro del Piemonte. Da oggi al 13 febbraio la Galleria Borghese di Roma ospita la mostra dedicata al grande pittore Lukas Cranach, il Vecchio, uno dei massimi esponenti della pittura tedesca del Cinquecento, intitolata L'Altro Rinascimento. Uno dei curatori, Bernard Aikema, uno dei massimi studiosi di arte rinascimentale tedesca ed europea, al microfono di Adriana Fracchia. Due sono le sfide che confrontiamo con questa mostra. La prima è il fatto che Lukas Cranach, accanto a Dürer, il più importante protagonista del Rinascimento centroeuropeo tedesco, non è mai stato presentato in una mostra monografica a sud delle Alpi, in Italia o altrove nel bacino mediterraneo. Quindi questa è una grande occasione che vogliamo offrire al pubblico italiano. La seconda è di carattere culturale, scientifica. La mostra si chiama Cranach, l'altro rinascimento. E vogliamo far vedere che Lukas Cranach a prima vista sembra un artista, sì, del Cinquecento, ma nella sua cifra formale antitetica al classicismo e al naturalismo di stampo italiano che noi associamo con il concetto di rinascimento. Quindi un Cranach non di nicchia, un Cranach non nazionalistico tedesco, ma un Cranach più aperto, un pittore di corte europeo. Ed è tutto, prossimo GR24 alle 14. GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.